Piccoli uomini di Louisa May Alcott. Capitolo 1. Nat. Scusi, signore, è qui Plumfield? Chiese un ragazzetto dai vestiti sbrindellati all'uomo che aprì il portone davanti al quale l'omnibus lo aveva deposto. Sì, chi ti manda? Il signor Lawrence. Ho una lettera per la signora. Benissimo, va su e dagliela. Ti riceverà di certo, povero figliolo. L'uomo parlava amabilmente e il ragazzo si avviò verso la casa tutto rianimato da quelle parole. Attraverso la pioggerella primaverile che cadeva sull'erba appena spuntata e sui primi germogli degli alberi, Nat vide dinanzi a sé una grande casa quadrata. Una casa dall'aria ospitale con un portico all'antica, dei larghi gradini e molte finestre illuminate. Non c'erano tende né imposte a nascondere l'allegro chiarore. E nell'attimo di esitazione, prima di suonare, Nat vide molte piccole ombre danzanti sulle pareti, udì un gaio brusio di giovani voci e gli parve impossibile che quella luce, quel calore, quel benessere potessero essere per un povero figliuolo derelitto come lui. «Speriamo che la signora mi riceva davvero», pensò, dando un timido colpo col grande battente di bronzo che rappresentava una testa di grifo dall'aria gioconda. Una domestica colorita aperse la porta e prese sorridendo la lettera che egli le tendeva in silenzio. Si sarebbe detto che fosse abituata a ricevere dei ragazzi sconosciuti, perché accennandogli un sedile nell'ingresso disse con un cenno del capo: «Siediti lì e lascia sgocciolare un po' l'acqua sulla stuoia mentre porto questo alla signora». Nat trovò molto da divertirsi durante l'attesa, guardandosi attorno incuriosito e godendo della vista che gli si presentava, contento di poterlo fare senza essere osservato in quell'angolo semibuio presso la porta. La casa sembrava brulicare di ragazzi che stavano ingannando il crepuscolo piovoso con ogni sorta di giochi. Pareva che ce ne fossero dappertutto, al piano di sopra, al piano di sotto e nella camera della signora, perché attraverso le porte aperte si vedevano gruppi vivaci di fanciulli di ogni età, in tutti gli stadi della ricreazione, per non dire dell'effervescenza serale. Due grandi stanze a destra erano evidentemente aule scolastiche, perché contenevano dei banchi e qua e là carte geografiche, lavagne e libri. Il fuoco ardeva nel caminetto e parecchi ragazzi vi stavano sdraiati davanti, discutendo di un nuovo campo di cricket con tale animazione che le loro scarpe si agitavano per aria. Un giovinetto alto si esercitava sul flauto in un angolo, per nulla disturbato da tutto quello strepito. Due o tre altri saltavano al di sopra dei banchi, interrompendosi ogni tanto per riprender fiato e per ridere dei buffi schizzi di un burlone che stava facendo la caricatura di tutti sopra una lavagna. Nella stanza a sinistra si vedeva una lunga tavola da pranzo, carica di grandi recipienti pieni di latte appena munto, di mucchi di pane scuro e bianco e di vere cataste di lucido pan pepato, così caro ai ragazzi. Si sentiva nell'aria l'odore del pane abbrustolito e un vago aroma di mele cotte, molto eccitante per i piccoli nasi e gli stomaci affamati. Ma l'aspetto più attraente era quello dell'atrio, dove si stava svolgendo una vivace partita a tocca e scappa, nella parte più vicina dell'ingresso, mentre un pianerottolo era dedicato ai birilli, un altro alla dama, e la scala era occupata da un ragazzo che leggeva, una ragazzina che cantava la ninna nanna alla sua bambola, due cuccioli, un gattino e una serie ininterrotta di ragazzetti che sdrucciolavano lungo la ringhiera, con gran danno dei loro pantaloni e pericolo per la loro integrità. Nat si lasciò talmente prendere da quella corsa emozionante che si spinse sempre più fuori dal suo angolo, e quando un vivacissimo ragazzo venne giù con uno slancio tale che non poté frenarsi e cadde fuori della ringhiera, con un colpo che avrebbe spezzato qualunque testa salvo la sua, resa dura come una palla da cannone da 11 anni di costanti capitomboli, egli, dimentico di sé, accorse presso il cavallerizzo caduto, aspettandosi di trovarlo mezzo morto, ma il ragazzo sbatté solo le palpebre per un attimo, poi rimase tranquillamente per terra guardando la nuova faccia con un sorpreso «Oh! Olà!» «Olà!» rispose Nat, non sapendo che altro dire, e trovando tale formula una risposta non meno breve che facile. «Sei uno nuovo?» chiese il ragazzo senza muoversi da terra. Non lo so ancora. Come ti chiami? Nat Blake. Io mi chiamo Tommy Banks. Vuoi venire a fare una sdrucciolata? Sarà meglio che sappia prima se posso o no restare qui, rispose Nat, sentendo crescere di minuto in minuto il suo desiderio di rimanere. Di un po', Demi, qui c'è un ragazzo nuovo, vieni a vederlo. E il vivace Thomas tornò al suo gioco con lo stesso gusto di prima. Al suo richiamo, il ragazzo che leggeva sulle scale alzò due grandi occhi scuri e dopo un istante, quasi vincendo la sua timidezza, si mise il libro sotto il braccio e venne calmo calmo a salutare il nuovo arrivato, che trovò qualcosa di molto attraente nel volto di quel fanciullo snello dagli occhi dolci. Hai visto la zia Jo? Chiese, come se quella fosse una specie di importante cerimonia. Finora non ho visto che voi altri ragazzi, sto aspettando. È lo zio Lori che ti manda? Continuò Demi con garbo ma con gravità. E il signor Lawrence? Appunto, lo zio Lori, e manda sempre dei ragazzi simpatici. Nat fu lusingato dell'osservazione e il suo visetto si illuminò di un sorriso che lo rese davvero simpaticissimo. E siccome non sapeva che altro dire, i due rimasero a guardarsi in un silenzio amichevole finché non arrivò la ragazzina con la bambola in braccio. Somigliava molto ad Amy, ma era meno alta e aveva un volto più pieno e più colorito, con occhi azzurri. Ecco mia sorella Daisy, annunziò Demi con l'aria di presentare una creatura rara e unica al mondo. I due si salutarono e nelle guance della bambina apparvero due graziose fossette mentre diceva affabilmente: Spero che ti tratterrai. Passiamo delle giornate così belle qui, vero, Demi? Certo, è per questo che la zia Jo tiene Plumfield. Sembra davvero un bellissimo posto, osservò Nat, sentendo che doveva pur rispondere in qualche modo alla loro amabilità. È il più bel posto del mondo, vero, Demi? Disse Daisy, che evidentemente considerava suo fratello come un'autorità su qualsiasi argomento. No, io credo che sia più interessante la Groenlandia, con gli iceberg e le foche, ma mi piace tanto Plumfield, e ci si vive così bene. Rispose Demi, che stava leggendo con interesse un libro su quella regione nordica e voleva appunto offrire a Nat di fargli vedere le illustrazioni e di spiegargliele, quando la domestica tornò e disse, accennando verso la porta del salotto: Va benissimo, puoi restare. Oh, son contenta. Ora vieni dalla zia Jo. E Daisy lo prese per mano con una graziosa aria di protezione che tolse subito a Nat ogni senso di imbarazzo. Demi tornò al suo caro libro, mentre sua sorella conduceva il nuovo arrivato in una stanza dove un signore corpulento giocava sul divano con due bambini, mentre una signora magrolina stava appunto terminando di rileggere la lettera. Eccolo, zietta, gridò Daisy. Dunque, questo è il mio nuovo figliolo. Sono contenta di vederti, caro ragazzo, e spero che sarai felice qui, disse la signora, tirandolo a sé e respingendogli indietro i capelli dalla fronte con mano gentile e con uno sguardo materno che le conquistò il piccolo cuore di Nat assetato d'affetto. Non era bella, ma il suo viso aveva un'espressione scherzosa, come se non avesse mai dimenticato certe maniere e certi atteggiamenti della sua adolescenza che affioravano anche nella voce e nel contegno. E queste caratteristiche, difficili da descrivere ma molto evidenti, le rendevano un tipo geniale, piacevole, con cui era facile intendersi, e in genere divertente per dirla coi ragazzi. Essa annotò il leggero tremito delle labbra di Nat mentre gli accarezzava i capelli e i suoi occhi acuti si addolcirono, ma si limitò a tirarsi più vicina alla figuretta sbrindellata mentre rideva dicendo: Io sono mamma Baer, questo signore è papà Baer e questi sono due piccoli Baer. Qua, bimbi, venite a salutare Nat. I tre, che facevano la lotta sul divano, ubbidirono subito. E l'omone, con un bambino paffuto issato su ciascuna spalla, venne a dare il benvenuto al nuovo arrivato. Rob e Teddy si contentarono di sorridergli, ma il signor Bauer gli strinse la mano e, accennando una seggiola bassa vicino al fuoco, disse con tono cordiale: Ecco un posto pronto per te, figliolo. Siedi e asciugati subito i piedi bagnati. Bagnati? È vero, caro, levati immediatamente le scarpe e io preparerò in un baleno qualcosa di asciutto per te, gridò mamma Baer. dandosi attorno con tale energia che Nat si trovò seduto sulla comoda seggiolina, calzato di calzettoni asciutti e di pantofole calde, prima di aver avuto il tempo di raccapezzarsi. «Grazie, signora», mormorò con tanta riconoscenza che gli occhi di lei si addolcirono di nuovo ed essa disse qualcosa di scherzoso, come soleva fare quando era commossa. «Queste sono le pantofole di Tommy Banks, ma non si ricorda mai di mettersele in casa e quindi resterà senza. Sono troppo grandi, ma tanto meglio. Non potrai scappar via in fretta, come se ti calzassero bene». «Io non desidero scappare, signora». E Nat allargò le manine sporche davanti alla fiamma con un lungo sospiro di soddisfazione. «Bene, bene. Ora io ti arrostirò di santa ragione per liberarti da codesta brutta tosse. Da quando l'hai, caro?» chiese la signora Baer mentre frugava nel suo capace cestino da lavoro in cerca di un pezzo di flanella. «L'ho avuta tutto l'inverno. Mi prese un raffreddore e non so come non ha voluto migliorare». «Non c'è da stupirsene. Vivendo in quella cantina umida, con appena uno straccio per coprirsi la sua povera schiena», disse la signora a bassa voce a suo marito, che osservava il fanciullo con due occhi acuti, notando nelle tempie incavate e le labbra febbricitanti, nonché la voce rauca e i frequenti accessi di tosse che scuotevano le spalle curve sotto la giacchetta rattoppata. «Rob, ometto caro, corri su dalla bambinaia e fatti dare la bottiglia del calmante e l'unguento per le frizioni», disse il signor Baer dopo aver scambiato un'occhiata d'intesa con sua moglie. Nat osservava un po' ansioso quei preparativi, ma dimenticò le sue paure per scoppiare a ridere quando la signora gli mormorò con un'occhiata comica: «Senti quel briconcello di Teddy che si sforza di tossire nello sciroppo che ti darò. C'è del miele e lui ne vorrebbe». Quando arrivò la bottiglia, il piccolo Ted era rosso per gli sforzi fatti ed ottenne il permesso di leccare il cucchiaio, dopo che Nat ne ebbe coraggiosamente presa una buona dose e gli fu messo sul petto un pezzo di flanella. Questi preliminari di una lunga cura erano appena finiti quando suonò una campana e un forte scalpicciare nell'atrio annunziò la cena. Il timido Nat si sentì tremare all'idea di trovarsi con tanti ragazzi sconosciuti, ma mamma Baer gli tese la mano e Rob disse con aria di protezione: «Non avere paura, a te ci penserò io». 12 ragazzi, 6 per parte, stavano dietro le loro sedie, scalpitando per l'impazienza di cominciare, mentre l'alto giovinetto, che suonava il flauto, tentava di frenare il loro ardore. Ma nessuno si sedette finché la signora Baer non fu al suo posto dietro la teiera, con Teddy alla sua sinistra e Nat alla sua destra. «Ecco il nostro nuovo figliolo, Nat Blake. Dopo cena potrete fare conoscenza. Piano, ragazzi, piano!» Mentre parlava, tutti fissavano Nat. Poi si precipitarono sulle loro sedie, cercando invano di non fare confusione. I Baer facevano del loro meglio perché i ragazzi si comportassero bene durante i pasti e di solito vi riuscivano abbastanza bene perché le loro regole erano poche e ragionevoli e i ragazzi, sapendo che si cercavano di facilitare loro il compito e di renderlo piacevole, si sforzavano di ubbidire. Ma ci sono casi in cui dei fanciulli affamati non possono essere repressi senza vera crudeltà e la sera del sabato, dopo una mezza vacanza, era uno di tali casi. Lasciamo questi cari piccoli una giornata in cui possano gridare e far chiasso e birichinate fino a cavarsene la voglia. Una vacanza non è una vacanza senza molta libertà e molto spasso, ed essi debbono avere la briglia sul collo una volta alla settimana», soleva dire la signora Baer, quando le persone formaliste si stupivano che sotto il tetto prima così rispettabile di Plumfield si permettesse di sdrucciolare lungo la ringhiera delle scale, di fare la lotta coi cuscini e ogni sorta di allegri giochi. Poté sembrare qualche volta che il summenzionato tetto corresse il pericolo di volar via, ma ciò non avvenne mai, perché una parola di papà Baer aveva il dono, in qualunque momento, di ristabilire la calma. I ragazzi sapevano che non si deve abusare della libertà. Quindi, nonostante molte cupe predizioni, la scuola fioriva e le buone maniere e i precetti morali facevano presa, senza che gli alunni sapessero esattamente come ciò avvenisse. Nat si trovò benissimo dietro i grandi boccali del latte, con Tommy Banks di fianco e la signora Baer accanto, che gli riempiva il piatto e il bicchiere con la stessa sveltezza con cui egli li vuotava. «Chi è quello laggiù, all'altro capo della tavola, accanto alla ragazzina?» chiese in un bisbiglio al suo vicino, approfittando di una risata generale che copriva la sua voce. «Ed è mi Brooke, il signor Baer, è suo zio. Che nome curioso. Veramente si chiama John, ma lo chiamano Demi, John. Cioè mezzo John, perché anche suo padre ha nome John. È uno scherzo, capisci?» disse Tommy, spiegandogli la cosa con garbo. Nat non capì, ma sorrise gentilmente e chiese con interesse: «Non è un caro ragazzo?» «Certo che lo è, sa un mucchio di cose e non fa che leggere.» «E quello grasso accanto a lui?» «Oh, è Staffy Cole, cavolo ripieno. Il suo nome è George, ma noi lo chiamiamo Staffy perché mangia tanto. Quello piccolo vicino a papà Baer è suo figlio Rob, e quell'altro grande è Franz, suo nipote, che ci fa qualche lezione e ci sorveglia un po'.» «Suona il flauto, vero?» chiese Nat, mentre Tommy interrompeva le sue spiegazioni per mettersi in bocca una mela cotta tutta in una volta. Tommy fece segno di sì e disse, prima di quanto ci si sarebbe potuto aspettare in quelle circostanze: «E come no? Certe volte balliamo e facciamo la ginnastica a suon di musica.» «A me piace il tamburo e conto di imparare a suonarlo appena posso.» «Io preferisco il violino, lo so suonare», disse Nat, diventando espansivo, dato che l'argomento era così attraente per lui. «Davvero?» E Tommy, spalancando gli occhi pieni di interesse, lo fissò di sopra l'orlo della sua ciotola. «Il signor Baer ha un vecchio violino e te lo lascerà suonare se lo desideri. Credi? Oh, mi piacerebbe tanto. Capisci, io ho fatto il suonatore ambulante con mio padre e con un altro finché non è morto.» «Doveva essere molto divertente», gridò Tommy impressionato. «No, era una cosa orribile. Tanto freddo d'inverno e tanto caldo d'estate. E io ero così stanco. E loro certe volte erano di cattivo umore. E non avevo abbastanza da mangiare.» Nat fece una pausa per dare un bel morso nel suo pan pepato, quasi a persuadersi che i tempi duri erano passati. Poi aggiunse con aria di rammarico: «Ma volevo bene al mio piccolo violino e ne sento la mancanza. Nicolò me lo prese quando morì il babbo e non mi volle più con sé perché ero malato.» «Ti metteranno nella banda se suoni bene.» «Avete una banda qui?» chiese Nat con occhi scintillanti. «Certo che l'abbiamo, una bella banda, tutta di ragazzi, e fanno concerti, eccetera.» «Vedrai cosa succede domani sera.» Dopo questo accenno piacevolmente eccitante, Tommy si immerse di nuovo nella sua cena e Nat cadde in una beata fantasticheria davanti al suo piatto pieno. Mamma Baer aveva sentito tutto, pur sembrando assorta nel riempire ciotole e nel sorvegliare il piccolo Ted, così insonnolito che si metteva il cucchiaio in un occhio con la testina ciondolante come quella di un papavero roseo, e finalmente cadde addormentato con la guancia appoggiata a una soffice ciambella. Mamma Baer aveva messo Nat accanto a Tommy perché quel tombolotto di ragazzo aveva un carattere aperto e socievole, molto attraente per i timidi. Nat se ne accorse durante la cena e gli fece alcune piccole confidenze che dettero a Mamma Baer la chiave del suo carattere, meglio che se gli avesse parlato a lungo essa stessa. La lettera del signor Lawrence, portata da Nat, diceva: «Cara Jo, eccoti un caso proprio di quelli che fanno per te. Questo poveretto è orfano, malato e senza amici. È stato un suonatore ambulante. L'ho trovato in una cantina, tutto afflitto per la morte del padre e per la perdita del suo violino. Credo che ci sia della stoffa in lui e mi sembra che fra noi due possiamo dare una spinta a questo ometto. Tu curerai il suo corpo esaurito, Fritz la sua mente troppo trascurata e al momento buono io vedrò se è un genio o soltanto un ragazzino dotato d'un talento sufficiente per guadagnarsi il pane. Mettilo alla prova per amore del tuo figliolo, Teddy.» «Naturale che lo faremo», aveva esclamato Mamma Baer dopo letta la lettera. E quando vide Nat, capì subito che, genio o no, era un ragazzo solo e ammalato, bisognoso proprio di quello che ella dava tanto volentieri: una casa e la tenerezza di una mamma. Jo March era diventata Mamma Baer. Tanto lei che il marito lo osservarono in silenzio. E nonostante gli abiti stracciati, le maniere goffe e la faccia sporca, videro in lui molte cose che apprezzarono. Era un ragazzetto magro e pallido, sui 12 anni, con occhi azzurri e una bella fronte sotto i capelli ispidi e spettinati. A tratti gli passava sul volto un'espressione ansiosa e spaventata, come se si aspettasse delle parole dure o delle botte. La bocca espressiva tremava quando qualcuno lo guardava con simpatia ed ogni parola gentile provocava uno sguardo pieno di gratitudine, dolcissimo a vedersi. Dio lo benedica, povero piccino. Potrà suonare il violino tutto il giorno se gli fa piacere, pensò mamma Baer, vedendo l'espressione raggiante del suo viso mentre Tommy gli parlava della banda. Così, dopo cena, quando i ragazzi si riversarono nella stanza da studio per fare ancora un po' di chiasso, la signora Joe comparve tenendo in mano un violino e, dopo aver scambiato qualche parola con suo marito, si avvicinò a Nat, che seduto in un angolo osservava la scena con grande interesse. Ora, ragazzo mio, facci una suonatina. Mancava un violino nella nostra banda e credo che tu andrai benissimo. Ella si era aspettata una qualche esitazione. Invece il fanciullo prese subito il violino, maneggiandolo con tale amorevole riguardo che ben si vedeva come la musica fosse la sua passione. Farò del mio meglio, signora, fu tutto quanto disse. Poi fece scorrere l'archetto sulle corde, quasi ansioso di riudire le care note. C'era un gran chiasso nella stanza, ma Nat, come se fosse stato sordo a ogni suono, tranne a quelli che traeva dal suo strumento, suonava per se stesso, dimenticando tutto nel piacere che provava. Non era che una semplice melodia nera, di quelle che suonano i musicisti ambulanti, ma colpì subito l'orecchio dei ragazzi, riducendoli al silenzio, finché rimasero ad ascoltare sorpresi e divertiti. Poi gli ci fecero sempre più vicini e anche papà Baer venne ad osservarlo perché, quasi ora fosse nel suo elemento, Nat continuava a suonare senza badare agli altri, con gli occhi brillanti e le guance arrossate, le dita sottili volavano mentre stringeva il vecchio violino, facendogli parlare il linguaggio che egli amava. Un cordiale scroscio di applausi lo compensò meglio di una manciata di soldi. Si guardò intorno come per dire: ho fatto del mio meglio, spero che vi sia piaciuto. Di un po', ma lo sai che sei di prima forza? Gridò Tommy, che lo considerava come il suo protetto. Tu sarai il primo violino della mia banda, aggiunse Franz con un sorriso di approvazione. La signora Baer sussurrò a suo marito: Teddy ha ragione, c'è della stoffa in questo ragazzo. E papà Baer approvò energicamente col capo, mentre batteva sulla spalla di Nat, dicendogli cordialmente: sei davvero bravo, figliolo mio. Su, ora suona qualche cosa che possiamo cantare. Quando fu condotto al posto d'onore, accanto al piano, e i ragazzi gli si raccolsero attorno, senza badare ai suoi poveri vestiti, ma fissandolo con rispetto, desiderosi di sentirlo suonare di nuovo, Nat visse il momento più bello e più felice della sua vita. Scelsero una canzone che egli conosceva e dopo uno o due vani tentativi finirono per avviarsi e violino, flauto e piano accompagnarono un coro di giovani voci che fece ancora una volta vibrare il vecchio tetto. Ma era troppo per Nat, più debole di quanto credesse, e quando l'ultimo applauso si spense, il volto gli si contrasse e, lasciandosi cadere di mano il violino, si voltò contro la parete, singhiozzando come un bimbo. Che c'è, caro? Chiese la signora Joe, che aveva cantato a gola spiegata, pur sforzandosi di impedire al piccolo Rob di battere il tempo coi piedi. Oh, siete tutti così buoni ed è tutto così bello e più forte di me, disse Nat fra i singhiozzi, ricominciando a tossire finché rimase senza fiato. Vieni con me, caro. Devi andare a letto e riposare. Sei sfinito e qui c'è troppo strepito, mormorò la signora Joe, conducendolo nel suo salotto dove lo lasciò piangere tranquillamente. Poi si fece raccontare da lui tutte le sue pene, ascoltando la sua breve storia, con le lacrime agli occhi, sebbene non fosse nulla di nuovo per lei. Figliolo mio, ora tu hai un padre e una madre, e questa è la tua casa. Non pensare più al triste passato, ma pensa a star bene e ad essere felice. E sta sicuro che per quanto dipende da noi, tu non soffrirai più. Questo posto è fatto per ogni sorta di ragazzi, perché vi possano vivere lietamente, pur imparando a diventare utili a sé e agli altri, come io spero. Tu potrai levarti la voglia della musica, ma prima devi irrobustirti. E ora vieni con me dalla bambinaia, prenderai un bagno e poi andrai a letto, e domani faremo insieme qualche bel progettino. Nat teneva stretta la sua mano senza riuscire a dire una parola, lasciando solo parlare i suoi occhi pieni di gratitudine. Seguì mamma Baer al piano di sopra in una grande stanza dove trovarono una tedescotta con una faccia così rotonda e allegra che sembrava una specie di sole con le gale della sua cuffietta al posto dei raggi. Ecco Hummel, che ti farà fare un bel bagno, ti taglierà i capelli e ti aggiusterà per benino, come dice Rob. Lì c'è la stanza da bagno e tutti sabato sera vi strofiniamo di santa ragione i piccoli e li cacciamo a letto prima che i grandi abbiano finito di cantare. Ora su, Rob, a te. Mentre parlava, mamma Baer aveva spogliato il bambino e l'aveva immerso in una lunga vasca nel gabinetto che si apriva sulla stanza della bambinaia. Ce n'erano due, oltre a semicupi, catini, docce e ogni sorta di arnesi destinati all'igiene personale. Nat ben presto provò il benessere dell'altra vasca e mentre sguazzava nell'acqua calda vedeva le due donne intente a lavare, strofinare, infilare nelle candide camicie da notte e mettere a letto quattro o cinque bimbetti, che naturalmente durante tutte quelle operazioni facevano salti e capriole, provocando scoppi di ilarità che finivano poi soffocati sotto le lenzuola. Nat, già lavato e avvolto in una coperta, stava davanti al fuoco. E la bambinaia gli tagliava i capelli, quando giunse un nuovo distaccamento di ragazzi che furono chiusi nella stanza da bagno, dove fecero tanto sciacquio e tanto rumore, quanto un branco di giovani balene in vena di giocare. Sarà meglio che Nat dorma qui, perché se la tosse lo disturba durante la notte possiate dargli una buona dose di sciroppo, disse mamma Baer, che correva di qua e di là come una gallina indaffarata a tenere raccolto un branco di vivaci pulcini. La bambinaia approvò e quando ebbe fatta infilare a Nat una camicia da notte di flanella e gli ebbe dato da bere qualcosa di caldo e di dolce, lo fece coricare in uno dei tre lettini che si trovavano nella stanza e gli rincalzò le coperte. E lì egli rimase come una piccola mummia soddisfatta, persuaso che niente di meglio in fatto di benessere potrebbe mai essergli offerto. La pulizia di per sé stessa gli dava una sensazione nuova e deliziosa. Nel mondo in cui aveva vissuto, le camicie di flanella erano lussi ignoti. I sorsi della roba buona che aveva bevuto gli avevano calmata la tosse, dandogli la stessa piacevole impressione che le parole affettuose producevano sul suo cuoricino derelitto. E l'idea che qualcuno si prendeva cura di lui trasformava agli occhi del fanciullo senza casa quella semplice stanza in una specie di paradiso. Era come un bel sogno e spesso chiudeva gli occhi per accertarsi che quando li riapriva tutto non era svanito. La cosa era troppo piacevole perché potesse addormentarsi, ma anche se avesse voluto, gli sarebbe stato impossibile perché pochi minuti dopo, ai suoi occhi stupiti ma capaci di apprezzarla, doveva rivelarsi una delle più curiose istituzioni di Plumfield. Una pausa momentanea negli esercizi acquatici fu seguita dalla improvvisa apparizione di vari cuscini fatti volare in tutte le direzioni da bianchi folletti balzati strepitando fuori dalle lenzuola. La battaglia infuriava in molte camere per tutto il piano superiore e ogni tanto giungeva fino alla stanza della bambinaia, dove alcuni guerrieri incalzati troppo da vicino cercavano rifugio. Nessuno sembrava affatto preoccuparsi di quell'esplosione di chiasso. Nessuno cercava di impedirla o ne pareva sorpreso. La bambinaia continuava a stendere asciugamani mentre mamma Baer tirava fuori dai cassetti della biancheria pulita con la massima calma, come se attorno regnasse l'ordine più perfetto. Anzi, essa stessa cacciò fuori della stanza un ragazzo audace, gettandogli dietro il cuscino che egli le aveva lanciato a tradimento. Non si faranno male? Chiese Nat, che rideva a crepapelle. Oh no, noi permettiamo sempre una battaglia coi cuscini il sabato sera. Domani si cambiano le federe. Tutto questo movimento è un'ottima reazione dopo il bagno, e del resto mi ci diverto anch'io. disse la signora Joe, tornando ad occuparsi di parecchie dozzine di calze rotti. Che bella scuola è questa, osservò Nat in un impeto di ammirazione. È una scuola assai strana, disse ridendo la signora Joe. Ma vedi, noi non crediamo utile infelicitare i ragazzi con troppe regole e troppo studio. Da prima avevo proibito questi spassi in camicia da notte, ma Dio li benedica, non ha servito a nulla. Sarebbe stato più facile tenere nella scatola un fantoccio a molla che questi figlioli nel letto. E così ho fatto un patto con loro. Io avrei permesso 15 minuti di battaglia coi cuscini il sabato, mentre loro si impegnavano di andarsene buoni buoni a letto tutte le altre sere. La prova è riuscita bene. Se non mantengono la parola, niente divertimento. Se stanno ai patti, io volto gli specchi perché non li fracassino, metto al sicuro le lampade e li lascio scatenarsi finché vogliono. È una bellissima idea, disse Nat. Gli sarebbe piaciuto partecipare alla battaglia, ma non osava proporlo quella prima sera. Rimase quindi disteso a godersi lo spettacolo, che certo era molto animato. Tommy Banks capitanava l'attacco ed Amy difendeva il suo dormitorio con un coraggio da leone. Ammucchiandosi alle spalle i cuscini appena gli arrivavano a tiro, finché gli attaccanti, rimasti senza munizioni, fecero una carica in massa contro di lui per recuperare le loro armi. Ci fu qualche lieve incidente, ma nessuno ci badò, e tutti continuarono a dare e a ricevere allegramente botte sonore, mentre i cuscini volavano in aria come immensi fiocchi di neve, finché mamma Baer, dopo aver guardato l'orologio, gridò: «Il quarto d'ora è passato, ragazzi, svelti a letto, o metterete pegno». «Che cos'è il pegno?» chiese Nat, tirandosi su a sedere, curioso di sapere che cosa capiterebbe ai bricconcelli capaci di disobbedire a una educatrice così originale, ma così piena di buone intenzioni. «Essere esclusi dalla battaglia la prossima volta. Io concedo loro 5 minuti per calmarsi, poi spengo i lumi ed esigo un ordine assoluto. Sono ragazzi leali e mantengono la loro parola». Infatti, la lotta cessò all'improvviso come era cominciata, a parte uno o due colpi prima di lasciarsi, un urrà finale, quando Demi lanciò il settimo cuscino contro il nemico in ritirata e qualche sfida per la prossima volta. Dopodiché, l'ordine fu ristabilito e nulla, tranne qualche risatina o qualche mormorio soffocato, ruppe la quiete seguita alla gazzarra del sabato sera, mentre mamma Baer baciava il suo nuovo figliolo e lo lasciava ai suoi sogni felici della vita a Plumfield.